devi proprio permettere di fare quella torsione, di girarsi, di andare solo, di calciare in porta e di segnare. Ma che ci avete in corpo? Niente! Non avete niente! Tutti convocati Weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Segnatevi subito il numero 800 24 00 24 fino alle 19 in diretta le vostre telefonate, oppure 349 238 6666 se volete mandare un messaggio, se siete ancora svegli. Dopo questo meraviglioso pomeriggio di Serie A, Cesena-Cagliari 0-1, Udinese-Sassuolo 0-1, Chievo-Atalanta 1-1, Palermo-Fiorentina 2-3, Parma-Verona 2-2, due notizie. In pratica la Fiorentina è qualificata in Europa League e Toni, se il campionato finisse oggi, sarebbe il capocannoniere con 21 gol fatti. Però c'è materiale per il giudice sportivo? Diciamo la verità. C'è materiale per il giudice sportivo? No, perché? Però no, insomma, come perché? Un pomeriggio di amichevoli. Un c'è pomeriggio sempre di, materiale per il giudice sportivo. Un pomeriggio di amichevoli. Ci ha tenuto sveglio un po', non troppo, il Gran Premio di Monte Carlo, dove alla fine si è suicidata la Mercedes, ma adesso racconteremo. Suicidata, ha vinto. Mercedes che è pronta a iscriversi alla non corsa per l'Europa League. Perché? Perché abbiamo visto ieri l'Inter, poi abbiamo visto oggi la Sampdoria, insomma il Genoa corre ma non ha la licenza UEFA, il Torino vedremo questa sera, sembra che nessuno ci voglia andare in Europa League, caro Carlo Genta. C'è tra Mercedes? E la Mercedes aveva vinto con Hamilton e ha vinto con Rosberg. Sì, però insomma sta succedendo qualcosa. Umberto Zappelloni, vice direttore della Gazzetta dello Sport, ciao. Ciao ciao, buon pomeriggio a tutti. Iscriviamo la Mercedes ed Hamilton alla non corsa per l'Europa League, eh? Ma il povero Hamilton no, perché poveraccio, lui ha solo eseguito gli ordini, diciamo. La Mercedes ha fatto una giocata quantomeno bizzarra o addirittura folle, perché non si capisce perché abbia fatto rientrare il pilota che stava dominando la gara, che aveva dominato il weekend e meritava in toto questa vittoria, sperando di riuscire a rimandarlo in pista davanti a tutti, un calcolo completamente sbagliato. E certo la vittoria è rimasta in tasca a loro, però insomma adesso hanno in squadra un Hamilton un po' più arrabbiato di quello che non sì, era non come l'ha direbbe, non l'ha presa Totò, benissimo, come direbbe Totò direttore, sono quisquiglie. Beh, quisquiglie che però tengono aperto, sono quisma che ha aperto scorso, il campionato proprio, è chiusissimo. L'anno scorso proprio a Monte Carlo era capitato qualcosa di simile, perché in qualifica i due avevano cominciato una lite che poi è arrivata fino allo scontro di Spa, quando finivano uno addosso all'altro. Sì, ma quest'anno non c'è materiale da contendere. Non c'è materiale da contendere, però almeno diciamo il campionato è un po' più vivo, perché Hamilton adesso ha solo 10 punti di vantaggio su Rosberg e la Ferrari è lì ad aspettare dei regali, perché oggi il secondo posto di Vettel è figlio di del regalo della follia della Mercedes, perché sennò Vettel non avrebbe mai superato una Mercedes. Sì, mai, così come Raikkonen per una domenica è tornato quello dell'anno scorso. Sì, si è addormentato, forse è annoiato dalla gara. Si è addormentato alla fine. Ai 15 giri finali la gara è stata molto noiosa. Molto noiosa. Diciamo, si è fatto superare da Ricciardo, lo raccontiamo, quasi un ruota contro ruota, poi si è svegliato il finlandese, ha detto ma avete visto cosa ha fatto quel ragazzino? I giudici hanno guardato, tutto regolare, e Kimi Raikkonen è finito sesto. Quello che è successo ad Hamilton è, dopo 65 giri di noia, un botto pauroso di Verstappen, safety car in pista, e il muretto che richiama Hamilton, che da primo rientra terzo, poi non riesce a superare Vettel, dunque il podio Rosberg, Vettel, Hamilton. Vi faccio sentire, arriva bene dopo la gara. No, lui è molto contento, certo noi abbiamo avuto un po' di fortuna, bisogna essere sinceri, però la fortuna la si cerca anche, nel senso che loro sono stati secondo me un po' arroganti, pensando di fare un cambio e poi passarci alla grande. Seb ha guidato veramente da fenomeno e siamo andati lì noi, sono contento. Senti direttore, ma non è che ha ragione Briatore, che è della linea Alonso, per cui in fondo la Ferrari sta facendo esattamente come l'anno scorso, con la differenza che non c'è più un'altra scuderia che compete con la Mercedes in mezzo? Più scuderie in mezzo, è vero, però la Ferrari è decisamente più vicina alle Mercedes di quello che non fosse l'anno scorso, cioè è vero, le altre sono sparite, la Williams soprattutto a Monte Carlo non l'abbiamo praticamente vista, però la Ferrari è obiettivamente più vicina alle Mercedes, non lo è stata a Barcellona ma sulle altre piste lo è stata dove è stata spesso più vicina. Quindi insomma, la Ferrari sicuramente quindi è migliorata, non abbastanza per vincere il mondiale, ma è migliorata. Quindi è frutto solo del veleno dell'addio il tweet di Alonso l'anno scorso, era un minuto, adesso sono 43 secondi, sì, non è cambiato niente. Su certe piste è così, a Barcellona è stato così, però Alonso non è mai stato molto simpatico con quelli che ha lasciato, li ha lasciati tanti nella sua carriera. Insomma, vedremo cosa capiterà dopo che lascerà anche la McLaren. Oggi è andata malissimo un'altra volta, come al solito, raccolto i primi punti regolare. Sua squadra. Certo che farà per vedere un pilota del suo talento poi complicarsi così la vita. Sì, ma ci si è anche infilato Alonso, perché insomma l'anno scorso ha fatto anche di tutto per chiudere con la Ferrari. Sì. Quindi da un certo punto di vista a questo punto raccoglie quello che si merita. C'è un amico che scrive: la sciagura di Hamilton dimostra che nella Formula 1 robotizzata c'è ancora posto per errori dovuti a concitazione ed emotività. Noi non vogliamo fare i maligni e quindi non crediamo che in Mercedes abbiano voluto provare a regalare qualche emozione in più per il resto della stagione, no, direttore? Hanno anche chiesto scusa a Hamilton, hanno fatto una stupidata grossa come una casa. E sì, sai, noi ci annoiamo a vedere una gara così senza sorpassi, però poi ti rendi conto che correre a quelle velocità a Monte Carlo basta un errore come quello di Verstappen e succede un mezzo cataclisma. Lui pensava fosse di correre ancora con la PlayStation, perché ha fatto un sorpasso che vedi fare i ragazzini con i videogiochi lì in quel posto lì a Monte Carlo. È duro andare a sorpassare in quel modo. Lui ci ha provato, forse aveva troppa fiducia nei suoi mezzi e pensava veramente di essere ancora la PlayStation, e ha combinato un bel casotto. Sì, gli è andata bene, però ci ha svegliati perché ci stavamo addormentando tutti. Meno male. Vi faccio sentire la voce di uno che non sarà l'anno prossimo l'allenatore del Milan. In questo momento microfono di Sky Sport. Cosa importante. Prima di passare a Ilaria, che non è ovviamente Ilaria D'Amico, ma è Roberto Donadoni, che non sarà l'anno prossimo allenatore del Milan, chissà dove andrà a finire l'ottimo Donadoni, sentiamolo. E direi che non dobbiamo guardare questo tipo di discorsi, ma dobbiamo guardare a tutto un trascorso di un'annata difficile e complicata, dove anche noi sicuramente potevamo fare qualcosa in più con tutte le attenuanti del caso, però insomma abbiamo in tante partite fatto un po' come oggi, regalato una possibile vittoria, un risultato che era alla portata con un po' troppa facilità, e questo al di là di tutti i problemi un po' è anche colpa nostra. Questo Donadoni che oggi ha chiuso a Parma, cioè ultima partita casalinga del Parma, poi vedremo che cosa accadrà nei prossimi giorni. Dicevo, non sarà allenatore del Milan, invece vi do le ultime. Da pochi minuti riunita la giunta direttiva del Real Madrid, dove Florentino Perez dirà Ancelotti va cacciato e ascolterà che cosa hanno da dirgli gli altri. Domani alle 13, direttore, non hanno da dire niente, è prevista una partenza di Galliani da Linate per Madrid. È un'operazione disperata, molto difficile. Berlusconi ci crede, lo ha detto, però chi crede a Berlusconi ancora? No, scherzi a parte, ieri Ancelotti ha detto che lui non, piuttosto si prende un anno sabbatico. Fa bene. La verità, io credo che sarebbe per lui veramente molto rischioso venire in questo Milan. Dovrebbe avere la garanzia di avere tanti investimenti, di avere un programma serio su cui cominciare a lavorare, perché sennò rischia di offuscare anche lui la sua stella rossonera, certo, tutto quello che ha fatto nel Milan. Non stiamo parlando di ragazzini, stiamo parlando di iperprofessionisti, stiamo parlando di uno dei più forti, più bravi allenatori del mondo, e sarebbe una fesseria colossale per Ancelotti venire a Milan in questo momento. Ancelotti è andato e ha vinto dovunque. Esatto, Ancelotti è andato e ha vinto dovunque. Al Milan chi è tornato ha solo fallito, ricordiamo gli ultimi esempi, la Sacchi a Capello, per non dire dei giocatori. Quindi dovrebbe avere veramente un debito di riconoscenza del Milan, ma Ancelotti ormai è uno che ha vinto dovunque e ha vinto bene, dalla Francia all'Inghilterra alla Spagna, quindi può starsene tranquillamente fermo un anno e aspettare una panchina magari inglese, che magari posso, anche la nazionale, magari anche la nostra nazionale. Vi devo fermare perché c'è il traffico, io però chiedo ancora un minuto di pazienza a Umberto Zappelloni, intanto 800 24 00 24, perché io voglio anche sapere dai nostri amici milanisti intanto cosa ne pensano del ritorno di Ancelotti, e poi se non hanno questo vago sapore di campagna elettorale che dal 1 giugno si scriverà una storia diversa. Traffico, tutti convocati. Sconvocati. Allora, 800 24 00 24, voglio sapere dagli amici milanisti che emozioni provano sapendo che Galliani domani alle 13 si imbarca da Linate per andare a Madrid a prendersi Carlo Ancelotti, che ha detto le cose che anche Umberto Zappelloni ci ha ricordato ieri sera dopo che Berlusconi ne aveva dette altre. Però io vorrei capire da tutti, a partire da Umberto Zappelloni, se non c'è questo vago sospetto, insomma, che Berlusconi stia affrontando queste settimane dal punto di vista comunicativo con una certa, non so come vogliamo definirla, direttore. Ma lo ha fatto tante volte in passato. C'è da dire che forse lui si è reso conto che adesso sul Milan deve cominciare a intervenire in modo serio, perché se no rischia veramente di svalutare quello che tiene ancora un grosso patrimonio, visto la valutazione che ha dato alla squadra quando si è trattato di provare a venderla a thailandesi e a cinesi. E se continua a non investire nel Milan rischia veramente di svalutarlo, perché ancora un altro anno lontano dall'Europa, se non vai a toccare su questa squadra più che sull'allenatore, saranno molti gli anni del Milan lontano dall'Europa, quindi con una svalutazione del brand che è inevitabile se non lo vediamo più poi giocare al di fuori del nostro campionato, e se lo vediamo nel nostro campionato nella seconda, nel lato destro della classifica. Scusa, ma non quindi... ha detto che o arrivano dei soci che gli regalano dei soldi o fa una squadra di ragazzini italiani, e allora che senso ha prendere Ancelotti? Aspetti, infatti sarebbe molto meglio prendere un Conte, però sai, Ancelotti troppo spesso Berlusconi ha fatto scelte legate ai successi del passato, l'ho fatto tante volte anche riguardo al Milan. Capello e Sacchi, sì, che abbiamo citato prima, erano stati chiamati appunto perché gli ricordavano ere vittoriose e gloriose. Ancelotti gli ricorda l'ultimo Milan vincente, però quello era un Milan che in campo aveva ben altri giocatori, insomma, quindi purtroppo non vorrei che si illudesse che mettendo in panchina Ancelotti con la bacchetta magica questo Milan l'anno prossimo potesse tornare a lottare per le prime posizioni. Bisogna cambiarne tanti, sì, forse troppi, per sperare che l'anno prossimo il Milan possa competere per lo scudetto. Difficile fare la conta di chi sia da Milan o no questa sera. Intanto ultima di Inzaghi a San Siro. Grazie direttore. Grazie a voi, buon programma a tutti. Grazie ad Umberto Zappelloni, vice direttore della Gazzetta dello Sport. C'è Eusebio Di Francesco, un altro dei tecnici top di questa stagione ai microfoni di Sky. Sentiamo. Mauro, Luca, no, c'è Massimo Mauro. Parliamo un po' di Inter. Gianni, l'ottimismo è il profumo della vita. L'ottimismo vola, vola, vola. Io sono contento di tante partite nelle ultime almeno 15-16, alcune no, tipo Parma, però per il resto la squadra ha una mentalità diversa, io sono felice. Purtroppo io faccio allenatore e vedo le cose positive, quindi le cose negative sono i risultati, ma credo che la strada è quella giusta e dobbiamo continuare ad avere questo tipo di attitudine. Ci dispiace per questo, perché comunque il club, presidente, tifosi sarebbero stati felici, non siamo riusciti, ci abbiamo provato fino all'ultimo minuto, non ce l'abbiamo fatta, ma questo non cambia la nostra strategia e i nostri obiettivi del prossimo anno. Noi vorremmo cercare di migliorare la nostra squadra, perché questi sono giocatori bravi e con l'aiuto di altri, con esperienza, con qualità, possono migliorare ancora. Perché ormai le domande sugli altri sono quelle su Balotelli, insomma, sono sempre quelle, tutti i tifosi che vogliono gli Aiature, quindi dipenderà, non so, lui è un giocatore del City, no? Non è una cosa così semplice, vediamo. Però siamo vicini, insomma, sentendo un po' l'umor. No, non siamo vicini, il mercato poi è strano, quindi dipende molto da come possono andare certe situazioni. Il paradosso è che, malgrado la sconfitta di ieri sera da Marassi, che segue la sconfitta in casa contro la Juventus, l'Inter non è ancora fuori dalla corsa per l'Europa League. Saluto Beppe Bergomi intanto, ciao zio. Sì, ciao Giovanni, ciao a tutti. Ciao zio. È un paradosso, eh. Ciao. Sembra che stiano giocando tutti a tenerla in gioco. Non c'è niente da dire sull'Inter, dai. Cosa? Non c'è niente da dire sull'Inter. Cosa vuoi dire? Non so, ditemi voi cosa volete sapere. Intanto io voglio sapere chi ha sbagliato secondo te sul 2-2 tra Handanovic e Ranocchia. Handanovic. Ci sono due scuole di pensiero Handanovic. Diverse. Più Handanovic. secondo me, dei due, anche se Ranocchia Andrea non deve andare a tentare di fare la scivolata, perché quello ha messo in difficoltà il portiere, ma lì il portiere esce e quando decidi di uscire devi andare a prendere la palla, quindi l'errore maggiore l'ha fatto sicuramente il portiere. Detto che la difesa dell'Inter è indifendibile, insomma, i numeri sono 45 gol presi in campionato, 56 in tutta la stagione, e quando tu sei così fragile dietro è difficile anche capitalizzare quello che costruisci davanti. Giovanni, però posso essere un po' in disaccordo, perché noi siamo troppo critici con i nostri difensori in generale in Italia, perché a parte la Juventus noi critichiamo tutte le altre, bene o male, no? E ho visto che in Europa, nel Real Madrid che gioca Carvajal, ho visto degli errori clamorosi di Sergio Ramos, Varane che non riusciva a tenere Morata, hai capito? Non vedo che le altre stanno molto bene. Poi sono d'accordo, Beppe. Sono d'accordo, Beppe. Ma io ti aggiungo che questa continua crocefissione di Ranocchia non la condivido. No, fammi arrivare, non lo voglio difendere, anche ieri sera l'ho criticato anch'io, perché poi ci sono degli errori individuali. Va bene. Veramente, va. Però l'errore grande di Mancini quest'anno è voler far giocare questa squadra in una situazione che non posso dire. Non è in grado questa squadra di sostenere il gioco che gli vuole dare Mancini. La squadra gioca anche bene, è bella da vedere, ma lascia i due difensori centrali sempre uno contro uno. Non hanno mai copertura, e se non hai due difensori centrali forti come lui aveva il Manchester City, diventa difficile giocare e vincere le partite, perché sarai sempre soggetto ad andare in difficoltà. Io non lo so, forse ha creato una mentalità giusta, perché la squadra gioca un ottimo calcio, perché i tre davanti fanno paura, la squadra propone gioco, ma dietro si soffre troppo, ecco. Questo è, secondo me, il peccato di Mancini, far giocare la squadra avendo a disposizione dei giocatori che forse non ce la fanno a sostenere quel gioco che lui vuole dare. Ti posso dare due numeri, zio? Difesa con Mazzarri, difesa fase difensiva, Inter con Mazzarri, 14 gol presi in 14 partite, 1 partita. Con Mancini 42 remoto, in 35, no, remoto, sì, gli uomini erano gli stessi. Evidentemente ha ragione lo zio quando dice che Mancini ha anche impostato un Inter forse troppo ambiziosa. Io continuo a non capire, e mi faccio aiutare dallo zio, che cosa possa trovare di grande ottimismo Mancini pensando all'anno prossimo e proiettandosi su una squadra che comunque potrà avere due o tre innesti, perché poi ci sono tutte le problematiche che conosciamo. A me sembra molto più lontana l'Inter dai primi tre posti di quanto la disegna Mancini, o no? Così sì, però da quando è arrivato Mancini ha sempre avuto questo ottimismo, che poi lui ha questo credito grandissimo verso opinione pubblica e i tifosi, e tutti gli concedono ancora un'altra campagna acquisti, nel senso, uno come lui gli devi concedere quella invernale, secondo me non fatta bene, perché poi alla fine non sta giocando quasi nessuno, forse quello che riesce a giocare con più continuità è Brozovic, gli altri sono fuori. Beh, Santon non male, Santon non male, Santon non male, Shaqiri non gioca più. Magari perché non ne ha più, Beppe. Come fa a essere stanco però, dai, è fuori ormai da quasi due mesi, non gioca da 8 partite. Sì, lui ha il problema che arrivava praticamente senza aver giocato nella prima metà della stagione. Aspettami che intanto saluto Pierluigi Pardo, ciao Pier. Che ci fai? Ciao, ciao, come va? C'è un Inter che vince qui, quella del 2002, al trofeo Nicolò Galli qui a Firenze, siamo stati 2-0, mi confermate, sta vincendo sì, la finale. Quindi c'è un Inter che sta vincendo qualcosa, sì. Di questi tempi sono buone notizie. Stavamo parlando di Santon, Santon sicuramente si è guadagnato la seconda chance. C'è un amico che scrive che nella classifica dei flop stagionali, dietro il Napoli, l'Inter ha fatto peggio del Milan, zio. Io non so se ti senti di condividere questo podio di flop. Sì, perché vedere quali erano le tue ambizioni. L'Inter io l'avevo messa che poteva attaccare il terzo posto quest'anno all'inizio. Secondo me, visto cosa l'anno scorso era arrivata quinta, era una squadra che poteva cercare di arrivare al terzo posto, secondo me. Poi dopo le cose non sono andate bene. Il Milan non ha il tipo di rosa che ha l'Inter, è un po' più indietro, ha meno qualità, anche se il Milan poteva fare sicuramente anche lei qualcosa di più. Sì, grazie zio. Ciao Beppe. Ciao, ti abbraccio. Grazie ciao. Beppe Bergomi. Pier, ci racconti un po' dove sei? Sono qui a Firenze, vi passerei adesso Giovanni Galli che ci racconta che cos'è questa iniziativa. Io sono qui a ricevere un premio, sono ovviamente felice. C'è anche Rino Gattuso che adesso andiamo a disturbare. Dopo il meteo è nostro. Sì. Vi passo Giovanni Galli, così vi racconta e vi dice anche due cose sulla Viola, che ha vinto ha vinto 3-2 a Palermo, sì. C'è nuovamente entusiasmo. È che cambia che in questa gara a non qualificarsi in Europa League, la Fiorentina finalmente ha messo un punto fermo. Credo sia la quarta vittoria consecutiva, Giovanni. Sì, sì. Quando un conta la Fiorentina è verdissima. Buonasera, Giovanni. Beh, intanto bene la Fiorentina oggi, dicevamo, in questa gara a non qualificarsi in Europa League, ha messo un punto fermo, quarta vittoria consecutiva. C'è Montella che sta parlando, poi capiremo qual è il suo futuro. Tu che sensazioni hai da Firenze? Ma sai, Firenze ha vissuto una stagione un po' particolare, da andare dalle stelle alle stalle, dalle stelle perché ha fatto dei risultati importanti, alle stalle perché a volte si sono ritrovati, no, con un pugno di mosche in mano, no? Vedi la semifinale di Coppa Italia, vedi la semifinale di Europa League, per cui tante contraddizioni, no, nella stessa stagione. Però il raggiungimento di questo traguardo credo che comunque sia un punto dal quale poi poter ancora ripartire. Ora non so se il progetto, all'interno di questo progetto ci sarà o meno Montella, insomma sarebbe, non so, se controproducente l'aver costruito in 3 anni comunque una squadra che ha una sua fisionomia, che ha una sua identità, ecco, ripartire da zero, cancellare tutto, oppure continuare su questo, su questo progetto. Senti Giovanni, ma non credi che questa squadra ci abbia un po' di palle? Ma è un po' quello che quando conta. Ma sai, è anche l'abitudine a dover stare a certi livelli, non è così semplice, non è così automatico, è sempre molto difficile, bisogna avere anche la cultura e l'abitudine a stare nei quartieri alti. Io faccio un esempio, la Lazio è arrivata al secondo posto, nel momento in cui è arrivata al secondo posto hai visto che cosa ha subito, e adesso è a rincorrere una posizione in Champions che sembrava quasi, no, ormai assodata tre settimane fa. Adesso è tutto legato al derby, perché il derby determinerà tante cose, anche perché poi dopo ci sarà un Napoli-Lazio, la Fiorentina giocherà in casa un'altra partita sulla carta abbordabile, per cui addirittura potrebbe trovarsi la Fiorentina al quarto posto, sì. Insomma, cosa qualche settimana fa impensabile. Assolutamente impensabile. Ci racconti un po' che giornata è quella di oggi, in parte ce l'ha accennato Pierluigi Pardo. Sì, è la giornata finale del torneo che si è svolto su 3 giorni, 10 squadre, e devo dire che ci rende particolarmente orgogliosi la partecipazione di squadre importanti come l'Inter, il Milan, la Juventus, Roma, Fiorentina, insomma tutte squadre che hanno nei settori giovanili curano moltissimo, ecco, il settore giovanile. Oggi in questo momento si sta svolgendo la finale. Devo dirti che c'è grande entusiasmo, e il messaggio che deve passare, per quello che abbiamo sempre cercato di fare noi nel nostro piccolo, è l'aggregazione, l'amicizia, perché questi ragazzi vivono 3 giorni braccio a braccio con gli avversari, e poi dopo c'è la competizione, però vanno via portandosi dietro delle amicizie importanti covate proprio in questi tre giorni. Questo non è il torneo dove i ragazzi si chiudono in un albergo, mangiano, vengono al campo, questo è lo sport. E questo è il nostro piccolo messaggio, però credo che con le società che hanno partecipato lo hanno capito, e i ragazzi in campo lo stanno trasmettendo. Grazie Giovanni. Ciao Giovanni. Grazie a voi, ciao, arrivederci. Grazie Giovanni Galli. 800 24 00 24, c'è anche chi chiede le percentuali di vittoria della Juventus nella finale di Berlino. Una domanda la faccio io prima del meteo, ma secondo voi domani al derby di Roma fanno il biscotto? 800 24 00 24. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Convocati. Senti cosa dice, non ci crederò mai. io le dico, non sono il primo a diffidare dei ritorni, ne abbiamo già avuto in passato, non hanno funzionato, però sono legato a Carletto da una forte amicizia personale. Carletto avrà anche degli assistenti molto bravi che lo asseconderanno in questo suo lavoro, ha una grande esperienza di grandi squadre con grandi campioni, conosce il mondo del calcio benissimo. Credo che tutto sommato questo ritorno sarà un ritorno positivo. Senti cosa dice, bugiardo di un bugiardo. Ci sarà solo e soltanto se il Real Madrid, certo, deciderà di lasciare libero Ancelotti. Quindi credo che a questo momento dobbiamo aspettare le decisioni del Real Madrid. Io lo ringrazio per questo, per la fiducia. Come ho detto, se non continuo qui mi fermo. Senti cosa dice. Questo è lo scambio di ieri a distanza tra Berlusconi e Ancelotti. Io non so, Pier, tu che idea ti sei fatto, cioè se credi davvero che domani alle 13, imbarcandosi per Madrid, Galliani possa tornare a casa con Ancelotti, o se invece siamo ancora alla questione di schermaglie. Se Ancelotti è fesso, sì. No, ma adesso a parte siamo sicuramente ancora alle schermaglie. Io non credo che domani alle 13 ci sarà questo ritorno, e credo però che insomma ancora alcune pagine possono essere scritte, quindi insomma non è domani la giornata decisiva, non è che se domani non torna e non Pierluigi tornerà, ma tu fai Ancelotti, ok, sei a Real Madrid, sei uno dei primi tre allenatori del mondo, sei sul podio, sei il più bravo, o quello che vuoi, ma tu vai a un Milan che non ha prospettive, no, ma... in cui Berlusconi, per il quale Berlusconi dice giochiamo con i ragazzini, ma tu ci vai? Io se sono Ancelotti, no. Io penso innanzitutto che ieri sia stata una grande serata di campagna elettorale per Ancelotti al Bernabeu. Il tweet di per Berlusconi Ronaldo... in Italia. Sì, più che altro per Ancelotti, più che altro per Ancelotti, ieri al Bernabeu, con il tweet di Cristiano Ronaldo, con comunque la sensazione che una parte dei tifosi del Real Madrid sia ancora con lui, con le sue parole che secondo me sono assolutamente in linea con tutto questo, cioè se non rimango qui in qualche modo lui ha messo il cerino, ha fatto il gioco del cerino spostando ovviamente tutta la responsabilità su Florentino Perez, e secondo me ha fatto esattamente quello che doveva fare. Se poi il Real Madrid deciderà di non confermargli la fiducia e magari fra qualche giorno dovessero esserci nuovi colloqui, io non è un'ipotesi che escludo al 100%, che possiamo scartare del tutto, perché anche perché è vero che sicuramente insomma in questo momento il discorso che fa Carlo è giustissimo, è ovvio che esiste una differenza tra il valore di Ancelotti e il valore del Milan in questo momento, nettamente a favore dell'allenatore emiliano, però è anche vero che possono, cioè uno può anche appassionarsi a una partita di tipo diverso, ma no? Non stiamo parlando di sentimenti, stiamo parlando di professionalità. Dire, piuttosto che star fermo Ancelotti, perché? Una volta incazzato, piuttosto che star fermo io sto fermo e aspetto quello che ha detto ieri, ma ha ragione, secondo me quella è la linea che Ancelotti deve seguire. Sì, sono d'accordo, però voglio dirti che se poi alla fine ti danno un minimo di progetto, peggio di quello che è stato quest'anno non lo puoi fare. Cioè, certo, la verità è che già riportare il Milan l'anno prossimo al terzo, quarto posto in classifica, meglio il terzo, ovviamente sarebbe qualcosa di importante. Quindi da questo punto di vista il punto di partenza è talmente basso che la possibilità di avere successo da parte di Ancelotti... Discorso già sentito a gennaio con Mancini, adesso non riapriamo porta, però più o meno era il ragionamento che si faceva. In attesa, Pier, che se hai qualche ospite ce lo porti... credo che sia arrivato il momento della premiazione, quindi adesso andiamo degli ospiti che poi sentiamo, magari vi lascio 5 minuti perché vedo Giovanni Galli che mi chiama, perché... è il momento della premiazione. Allora, ti riagganciamo fra 5 minuti. Pasquale dalla provincia di Napoli, 800 24 00 24. Pasquale. Sì, buonasera. Eccoci. Bruciamo Benitez. Vorrei farvi bruciamo Benitez. Grazie. Bruciamo Benitez. Bruciamo, sì, bocciato al massimo. Bocciato Benitez. Certo, bocciato. Va bene. No, appunto. Arriva Mihajlovic. Completamente fallito proprio. Quindi? Quindi è da rifondare tutto, addirittura si parla che anche Higuaín voglia andare via, Calleon, cioè proprio tutto da rifondare, cioè difesa e centrocampo non ci sono proprio, neanche minimamente. Abbiamo Davide Lopez, Britos, Koulibaly, cioè non sono calciatori da alta classifica. Poi dobbiamo considerare anche che il campionato è stato, diciamo, di livello basso, quindi il Napoli, diciamo, doveva addirittura ambire anche alla seconda posizione, allo scudetto addirittura, quindi no, è scudetto stato non è possibile, scudetto credo, non raccontiamoci delle favole, è ovvio che se facciamo la sottrazione dei numeri fuori che il Napoli, facendo leggermente meglio dell'anno scorso, avrebbe anche potuto puntare allo scudetto, ma io credo è del tutto evidente che la Juventus avrebbe fatto quei 5 punti in più che servivano per vincere, per vincerlo. No, invece è vero che il Napoli, se finisse oggi il campionato, avrebbe 15 punti in meno dell'anno scorso, e io credo che dentro questo numero ci sia molto del fallimento di Benitez. A proposito, grazie Pasquale, Montella che prima ha parlato di questioni di crescita e stimoli, di fatto quasi annunciando l'addio alla Fiorentina, e potrebbe essere anche lui un candidato per la panchina del Napoli insieme a Mihajlovic. Ha già firmato Mihajlovic. Io trovo Mihajlovic assolutamente favorito, però così si dice in queste ore. Sentiamo Moreno da Milano. Moreno. Sì, buongiorno. Eccoci. Io volevo parlare ieri di ciò che hanno fatto i ragazzi della curva per i ricordi dell'Isella. Sì. Ma la cosa peggiore non è che l'hanno fatta loro, dovrebbe essere normale, la cosa peggiore è che la Juventus, anche in occasione del trentennale, non farà nulla. E mi dispiace che adesso che Luigi Pardo non sia lì, perché a Tiki-Taka due settimane fa un giornalista del Fatto Quotidiano aveva detto che avevamo detto al signor Lorentini, che è quello della Fondazione della Isella, che praticamente era passato ancora poco tempo per ricordare le vittime dell'Isella. Poco tempo. Sì, la vicenda viene ricostruita dall'Associazione per le Vittime in maniera leggermente diversa. Quanto tempo serve per raccontare una tragedia? Cioè, non credo però ci deve sia, essere, però non deve credo essere chiaro che sia un se ieri a Torino, ragazzi, se ieri allo Juventus Stadium a Torino è stato esposto quel 39, c'è stato quel momento di commemorazione, sì, è stato fatto con l'accordo della Juventus, perché altrimenti dentro quello stadio quel tipo di coreografia non può entrare senza che la Juventus non sia d'accordo. Poi ci poteva essere uno spettacolo teatrale, non c'è stato l'accordo tra l'associazione delle vittime e dei familiari delle vittime. Io sono per la sobrietà. E la Juventus. Sono per la sobrietà. Però mi tutti pare che la stessa associazione, insomma, non abbia più di tanto fatto polemica. Comunque 29 maggio sarà importante ricordarla questa data. Lorenzo da Firenze. Lorenzo? Sì. Eccoci. Sì, buonasera. Prego. Senta, io vorrei parlare dell'Inter e di Mancini, no? Sì. Voglio sapere, no, secondo voi, non lo so, io questo miglioramento dell'Inter rispetto a Mazzarri non l'ho visto, ora questo Mancini ha qualche santo in paradiso, perché non capisco, viene trattato veramente come se fosse un fenomeno, eppure ha fatto peggio di Mazzarri. Mazzarri è stato trattato veramente come una specie di delinquente. Lorenzo, Mazzarri non piaceva all'interismo, non piaceva all'establishment, bravo, non piaceva a quelli, ai fighi radical chic che comunque continuano a dominare la platea dell'Inter, quindi non piaceva all'interismo. Mazzarri era inelegante, non parlava bene, non era un allenatore charmant, mentre Mancini, una volta che si annoda la sciarpa, piace a tutti. Va bene così come lettura, Lorenzo? Sì, ma mi sembra sinceramente sia Moratti che tutte queste persone che ragionano così, mi sembra sinceramente un popolo di gonzi, secondo me. Io la vedo così. Popolo di gonzi. Ma io credo però, Lorenzo, che il giudizio su Mancini sinceramente andrà fatto alla fine della prossima Mancini stagione. Mancini è un bravo allenatore. Fin qui è evidente che non ha portato quel qualcosa in più, lo dicono i numeri, lo dice il fatto che l'Inter chiuderà quasi sicuramente fuori dalla zona coppe, ed è uno schiaffo per il budget che ha messo in campo anche in questa stagione Toir. Però poi vediamo, diceva prima anche Beppe Bergomi, Mancini va valutato avendogli dato un ciclo intero di mercato da fare per vedere che progetto è in testa, e quindi andrà valutato più o meno fra 12 mesi oggi. Grazie Lorenzo, traffico. Ma diciamo che uno scudetto e una Coppa Italia non mi esaltano in modo pazzesco, non sto ancora, come dire, godendo. Ma attenzione, corna, non usiamo il termine triplete. Ed tutti convocati. Avvocati. Su Messi è molto difficile, perché quando prende palla non sa mai dove va, quindi quello è molto difficile. La cosa, io credo che quest'anno giocano in modo diverso, perché giocano con centravanti e quindi hanno un gioco sicuramente un po' diverso dal Barcellona di Guardiola. Mi è capitato lì, in quell'ottavo lì, ma nel quarto di finale l'anno prima, dove perdendo 3-1 a Barcellona avevamo subito due rigori in un tempo e eravamo stati in partita fino alla fine. Giocare contro loro è sempre difficile, bisogna essere molto bravi, perché loro hanno queste traiettorie di passaggio micidiali e quindi bisogna fare una partita giusta sul piano difensivo, ma non difensivo vicino all'area, difensivo per cercare di evitare i rifornimenti ai tre davanti. Secondo me dobbiamo avere tanta positività, tanto ottimismo, tanta coscienza di aver fatto un bel cammino di 4 anni e quest'anno secondo me abbiamo raccolto i frutti di quello che abbiamo seminato anche negli altri 3, per cui ci siamo guadagnati questa occasione di poter disputare questa finale e bisogna giocarcela anche con una sorta di leggerezza, perché tanto sappiamo che non abbiamo da perdere molto, visto e considerato che giochiamo con una squadra che in questo momento e negli ultimi 2 mesi è una squadra quasi imbattibile. Questo è Allegri e Buffon ieri dopo la partita contro il Napoli. A proposito della finale di Berlino, mancano 2 settimane meno un giorno, perché fra 2 settimane saremo qui a commentare l'esito di Juventus-Barcellona. Ha detto anche Buffon: abbiamo il 30% di possibilità di farcela. Io non so che idea hai tu sul 30% di Buffon. Secondo me di più, 30% in una finale, in una partita secca è un evidente squilibrio. La Juventus arriva con un sacco di segnali positivi a questa partita, non riesce a perdere una gara in campionato nemmeno volendolo, nemmeno facendo un turnover esasperato. L'abbiamo vista a San Siro, l'abbiamo visto ieri con squadre motivate, quindi Buffon va bene a dire al 30%, però secondo me è 51-49 in questa finale, tenendo conto anche dei piccoli guai del Barcellona, perché sappiamo come Guardiola sia, come Luis Enrique sia in uscita forse dal Barcellona. Sì, c'è questo paradosso che potrebbe andarsene col triplete. Potrebbe andarsene, ma io ci credo, perché lo dicono tutti, lo dicono i segnali, lo dice il personaggio Luis Enrique. Infatti io continuo a pensare che l'approdo ideale per Ancelotti, nel caso in cui volesse allenare ancora, sarebbe Barcellona. C'è un piccolo ostacolo, che sono le elezioni presidenziali che si terranno tra poco al Barcellona, e questo potrebbe essere ostativo rispetto al passaggio clamoroso di Ancelotti da Real Madrid a Barcellona. Io non so nemmeno come la prenderebbe tutto il popolo catalano. Io non ho ancora capito invece se, a parte i 3 davanti, Messi, Suarez e Neymar, e diciamo a parità di ruolo, preferiamo l'attacco del Barcellona dall'1 all'8, se questo Barcellona è davvero più forte della Juventus, perché la mia risposta è no. No, anche la mia dall'1 all'8 no, però sai bene come quello sia l'attacco più forte del mondo, inutile stare a sfrucugliare i numeri, lo sappiamo già perfettamente, e una partita secca questo può contare, però io credo sarà una finale molto più equilibrata di quanto si potrebbe pensare, molto più equilibrata di quanto Buffon dica 70-30, giustamente levandosi la pressione di dosso, eccetera eccetera. Credo che il Barcellona sia favorito e questo è indiscutibile. Penso che la Juventus non parta battuta, perché come tu dici, dall'1 all'8, comprendendo anche l'organizzazione di gioco della Juventus, non penso che sarà una partita, che sarà una passeggiata per il Barça. No, Barcellona che, ma questo lo chiediamo anche agli amici da casa, 800 24 24, secondo me è meno forte, è di quello del 2010. Questo è un ascoltatore. Buonasera signorina. Buonasera, ma che signorina? Signorina che? Devo Devo dire che ieri ho trovato la sua intervista professionale, molto coesa, molto positiva. Sì, io non ho Berlusconi, ma signorina non ho intervistato io, Presidente. Ma lei, mi scusi, ma lei non è quella gnocca che mi ha intervistato ieri? A parte che non si dice, sono io. Allora niente, scusatemi, ho degli impegni istituzionali che non mi consentono ulteriori perdite. Sì, no, però, buonasera. Ieri lei si è fatto intervistare, quindi a questo punto, insomma, da collega si è fatto intervistare, adesso. Guardi, la gnocca è un dovere. Se lo ricordi, è un dovere. Arrivederci. Le rubiamo solo un minuto. Sentiamo cosa ha detto ieri Ancelotti, no? Ha detto che non è vero, che lui piuttosto sta fermo un anno piuttosto che tornare a Milan. Guardi, con Carletto c'è una forte amicizia personale. Sì. Siamo molto coesi e in grande confidenza. Anzi, siamo talmente in confidenza con Carletto che ieri al telefono gli ho anche cantato una canzone. Questo è uno scoop. Che canzone gli ha cantato? Gliela accenno brevemente. Sì. Ed io che sono Carletto, l'ho fatta nel letto per fare un dispetto. Scusi, gente, fare un dispetto a mamma. Ma lei è veramente Si è divertito o no? Si è divertito con Ancelotti? Insomma, me la passa questa gnocca? No, non c'è. Allora mi scusi. Ma non ho tempo da perdere. No, ascolti, dai, ancora una domanda. Se davvero fa il Milan tutto con gli italiani, quelle cose lì, insomma. Guardi, è tutto chiaro. Con Carletto, con cui ho una forte amicizia personale, abbiamo deciso che faremo del Milan la nazionale italiana. Ci faccia qualche solo nome. Giocatori qualche nome, quindi Buffon, così, no? Ronaldo, quello del Real Madrid. No, si chiama Ronaldo Ficarotta e gioca in eccellenza Messina. Ma no, non è così forte, Presidente, non è così forte, ma abbiamo sicuramente un punto in comune. Beh, no, Presidente. Torniamo subito. La Fed ha sorpreso i mercati con il rimando della exit strategy monetaria. Sembra intenzionato a ricoprire il gap ribassista apertosi a inizio ottava. I dati deludenti anche su questo fronte dovrebbero accelerare il processo di attuazione del quantitative easing della BCE. Quando si parla di economia hai il mal di testa? Prendi Focus Economia, ogni giorno l'appuntamento con l'attualità economica spiegata in modo chiaro, diretto, senza giri di parole e senza sconti per nessuno. Da assumersi tutti i giorni, lontano dai pasti. Focus Economia, di Sebastiano Barisoni, da lunedì a venerdì alle 17, solo su Radio 24. Convocati 800 24 00 24. Pier, ci sei? Pier? Pier? Pardo, dove sei? Sì, dicevano che appunto io non ho firmato questo contratto qui con questo è Amedeo da Lodi, però Amedeo, quindi, prego. Buongiorno. Sì, buongiorno. Chi è questo? Ha avuto il privilegio della diretta Amedeo da Lodi così, entrando. No, sono curioso di sapere con chi ha firmato questo contratto. Chi è che ha firmato? Ecco, proseguendo, no, che vi stavo dicendo che praticamente voi. Facciamo così, però non Amedeo, sentiamo niente, non sentiamo un cazzo come col cellulare di Pardo. Amedeo, dove sei? Che succede? Non lo so. Allora, rimettiamo un secondo ordine. Allora, Pier, ci sei? Sì. Io ci sono, siamo E ti abbiamo recuperato. E questo è un fatto. Amedeo da Lodi, adesso proviamo a recuperare la linea che era. Che ha firmato un contratto, non si sa con chi. Prego, Pier. Finita la premiazione. È in pieno svolgimento, come si dice, ma insomma, io sono stato premiato, sarei premiato di collina. Cattuso, adesso si stanno premiando i giovani migliori, difensore, portiere, attaccante, centrocampista, insomma, forse ci sarà la foto adesso tra poco tutti insieme, però insomma. Sì, senti un po', tu che idea ti sei fatto? Dopo sentiremo Pioli, vi diremo anche che cosa ha detto Garcia, ma sul derby di domani, biscottone? Non credo. Sì, perché... sì, Pierino. Ma no, allora, alla Roma il pareggio andrebbe benissimo. Alla Lazio pure, dai. Ma guarda, la Lazio arriva molto bene a questo derby. Diciamo, se ci fosse stata la situazione inversa, cioè con la Roma più in forma, più in condizione, più con il morale, allora era un ragionamento che ci poteva anche stare, al di là del fatto che il biscotto sarebbe anche illegale, però voglio dire, astrattamente, come convenienza per le due squadre ci poteva anche stare. Io credo che la Lazio abbia l'ambizione di provare a arrivare in seconda, quindi io penso che proverà a giocare la partita. Farebbe bene, è la classica partita dove è ovvio che se a 10 minuti dalla fine ci dovesse 6-0-0 ci potrebbe essere della prudenza da una parte e dall'altra, ma biscotto francamente non riesco a immaginare, perché arrivare secondi o terzi fa una certa differenza. Certo, è vero, certo. Che guarda, la situazione della Lazio è molto semplice secondo me, cioè se vince domani arriva al 99% seconda, se pareggia arriva al 99% terza, se dovesse perdere rischierebbe, perché con tutto che il Napoli ieri è qualcosa di inguardabile, però insomma, lo sarà anche al prossimo giro, perché il Napoli è inguardabile. Se gliela apparecchi lì, tu immagina di un derby perso, arrivi a Napoli all'ultima giornata, hai fatto nettamente meglio, diciamo la verità, sia della Roma che del Napoli in questo girone di ritorno. Ma quelli si fanno gol da soli, Pierluigi, si fanno gol da soli. Allora, però, se è vero questo, Carlo, la Lazio non dovrebbe temere nulla, dovrebbe giocarsela soltanto. No, infatti dovrebbe giocarsela, la sensazione è che sarà biscotto. Questo secondo me è ciò che accadrà. Io al biscotto non ci credo, ripeto, poi è ovvio che se all'82esimo sono in una situazione di parità, hanno avuto delle occasioni, può subentrare l'elemento paura, e quello certamente potrebbe, però a quel punto della gara non penso all'inizio della partita assoluta. Sì, c'è un amico che scrive arrivare secondi o terzi. C'è un amico che scrive forse è più semplice per vincere questo derby che poi ad agosto battere il Valencia o il Manchester United o il Bayer Leverkusen, c'è anche un altro amico che scrive sarà un derby vero, niente regali, ed è Andrea da Modena con email. Sì, ma io penso che sia vero, cioè io penso che la differenza tra arrivare secondi e terzi è enorme, soprattutto perché né Roma né Lazio saranno teste di serie, per cui si rischia il Manchester United, ragazzi. Certo, Pierluigi. È chiaro che magari col Bayer Leverkusen te la giochi, bisogna vedere chi potrebbe arrivare, l'Ajax potrebbe essere testa di serie, vedremo, però insomma. Ma può essere un conto di convenienza, cioè la Lazio dice arrivo terza di sicuro oppure rischio di arrivare quarta, questo può essere l'unico incipit di un derby diverso dal biscotto, per Luigi. Sì, poi abbiamo sentito prima invece Buffon ed Allegri, abbiamo sempre qualche problemino con i telefoni, oggi non è una domenica fortunatissima. Ma dove sei? Descrivi la tua collocazione attuale. La collocazione è questa, è il piede del podio. Andando via, mi ha chiesto se voglio un passaggio, però chi? Nel frattempo dovrei... Gattuso. Passami Gattuso. No, adesso è andato. Ma dove è andato? Dove è andato Gattuso? Cioè Gattuso lo rincorriamo da mesi, è andato via? Verso la stazione, io adesso sono qui un po' in mezzo, in piena premiazione con Giovanni Galli e sul palco, e quindi non posso fare. Senti, invece del 30% che Buffon si è dato di possibilità di battere il Barcellona a Berlino, mi sembra una percentuale corretta. Direi anche un 30, poco o troppo? No, poco. Infatti ho detto se me anche un 35, beh insomma. Voglio dire, è una finale che ha una favorita, non è una finale equilibrata. Va bene, ok, ma 30 è correre nel bosco, dai, e urlare per non sentire la paura, dai. 30 vuol dire una possibilità su 3, vuol dire che su 6 facce del dado con 4 perdi e con 2 vinci. Mi sembra più o meno che sia in linea con quella che è la realtà tecnica di questa partita, che per me la Juve può giocare, perché la Juve ha delle armi in più del Barça, ha il gioco sulle palle inattive, che è una cosa secondo me importante, e soprattutto per la partita secca, e arriva con una condizione eccezionale, migliore dal punto di vista psicologico rispetto, ancora migliore di quella del Barcellona. Senti Pierluigi, ma riprendo una domanda di Capuano prima, dall'1 all'8 il Barcellona è meglio della Juve? Dall'1 all'8 in che senso? Dal portiere togliendo i tre là davanti. No, dall'1 all'8 secondo me è una partita equilibrata. Ah, ok. La differenza la fa la superiorità lì davanti e l'abitudine del Barcellona a giocare in un certo tipo di modo. Questo può fare la differenza. Barcellona per me ha qualità e chiaramente è la favorita, ma è inutile girarci attorno. Però non è una finale ingiocabile. Un po' perché nessuna finale è ingiocabile, nemmeno Portogallo-Grecia, poi infatti hanno vinto i greci. Sì. Nessuna partita secca è ingiocabile, a prescindere. ma poi anche tecnicamente qui c'è una distanza tecnica, ma non è una distanza così enorme, insomma, secondo me è in linea con l'impresa che la Juve ha già fatto a livello di semifinali. Il Real Madrid sta meno bene del Barcellona, ma la Juve ha eliminato il Real Madrid in 180 minuti, quindi era più difficile come tipo di impresa. Nella partita secca la distanza, ammesso che esista, fra due squadre è chiaramente più sottile. Senti, ma non ho capito oggi chi ha vinto. Chi ha vinto l'Inter? No, ha vinto l'Inter la finale, giusto? Sì, sì, sì, di questo torneo per ragazzi. Ah, almeno quella. Sì, sì, sì, ha vinto la finale con la Fiorentina. Ci fermiamo, c'è il traffico. Buonasera. Dal centro operativo di Villa Certosa, l'aggiornamento sulla viabilità. Il traffico è scorrevole su tutta la rete di competenza. Non si segnalano incidenti, non si segnalano tamponamenti, né tempi d'attesa ai caselli autostradali. Il manto stradale è in ottime condizioni di gioco, pertanto tutte le strade sono perfettamente percorribili. Buon viaggio! Beh, se Confindustria non mi prende adesso, c'è malafede. Sono l'unico in Italia così coeso. Solo notizie positive. Ma dove lo trovano uno così? Tutti convocati. Pier, sai che abbiamo al telefono? Pier? Abbiamo recuperato. No, Pardo ce l'abbiamo. Abbiamo Marco Bogarelli, il numero uno di Infront in Italia. Bogarelli, buongiorno. Buonasera. Io mi metto nei panni dell'utente. Lui è uno degli uomini più ricercati in questo momento. Mi metto nei panni dell'utente medio che non ha ancora ben capito che cosa gli succede l'anno prossimo, quale abbonamento dovrà fare, eccetera. Esiste una linea di chiarezza? Riusciamo a spiegarglielo? Non lo so. Cioè, hanno speranza di avere un accordo successivo? Cosa succede? Cosa sta succedendo nel mondo dei diritti TV in Italia? Ma è abbastanza semplice. Tra l'altro, le cose sono già successe un anno fa, quindi non è che adesso sia cambiato qualcosa. Niente, i diritti sono stati assegnati, come sapete, a Sky e Mediaset. Sky ha preso, diciamo, tutte le partite. Cioè Sky, inizialmente Mediaset ha preso tutte le partite, Sky una parte, successivamente Mediaset ha chiesto l'autorizzazione alla sublicenza alla Lega. La Lega non può dare la sublicenza se non chiede l'autorizzazione alle autorità competenti, diciamo l'antitrust e la GCOM. La Lega lo ha fatto, ha ricevuto parere favorevole e quindi ha concesso la sublicenza a Mediaset, che ha sublicenziato a Sky una parte delle partite che aveva acquistato, per cui l'anno prossimo Sky avrà tutto il campionato e Mediaset gran parte del campionato. Allora, le otto migliori squadre, che è quella cosa sulla quale poi abbiamo visto l'antitrust, ha aperto un'inchiesta, però io voglio capire esattamente una cosa. Allora, l'altro giorno con Marco Berinazzo del Sole 24 Ore, che di cui mi fido ciecamente, insomma, abbiamo definito questo polverone totalmente pretestuoso. Sì, sono abbastanza d'accordo, perché voglio dire, stiamo parlando di una cosa ormai datata. Esatto. L'autorizzazione dell'antitrust alla sublicenza è arrivata a luglio dell'anno scorso. Peraltro noi siamo stati molto prudenti, perché quando ti autorizza l'antitrust ti dà anche delle motivazioni. Certo, e quindi certo, ti chiede di ti autorizzo, ma devi rispettare dei parametri. Certo. Ecco, noi siamo stati così scrupolosi che ci abbiamo messo qualche mese prima di concedere la licenza, proprio perché abbiamo verificato scrupolosamente, attentamente, che tutti i parametri richiesti dalla CCM, l'antitrust, e la GCOM, antitrust delle comunicazioni, venissero rispettate. Direi che i provvedimenti erano abbastanza simili, c'era qualche piccola differenza, ma tutti e due approvavano con delle motivazioni abbastanza simili, leggermente diverse da quella della GCM, e l'abbiamo rispettate. Quindi siamo stati veramente molto scrupolosi, sia noi sia la Lega. Quindi del fatto che per i prossimi mesi l'antitrust ha aperto questa indagine, quindi andrà a riaprire tutti quei dossier, lei si sente tranquillo, non succede nulla? Tranquillissimo, che abbiamo fatto le cose in modo scrupoloso, in modo professionale, in modo attento. Riteniamo di aver interpretato correttamente tutte le motivazioni. Ma è possibile che tutto questo polverone nasca dalle parole di Lotito? Ho fatto parlare Murdoch e Berlusconi, è tutto merito mio. Cioè, perché la corrente principale è quella che dice dalle parole di Lotito nasce, da quell'intercettazione rubata, nasce tutto questo casino. Sì, ma io credo che sia così, onestamente. Poi magari qualcuno l'ha cavalcata e okay, continua a sprogliarsi. Posso dire però che prego, sarebbe grave però questa cosa, rispetto per i magistrati. Ma è così, Pierluigi. I magistrati si occupano di una cosa per un'intercettazione in cui si dice che Murdoch e Berlusconi hanno parlato. C'è anche l'intervista al Corriere, no? Questo per correttezza, sennò poi la gente da casa perde un pezzo di questo puzzle. C'è anche l'intervista al Corriere in cui Lotito più o meno ripete le stesse cose. Prego. Sì, ma io faccio onestamente fatica a capire una cosa. Tutto questo polverone, faccio fatica a capirlo, nel senso che qui siamo di fronte a un calcio italiano che negli ultimi 5 anni ha è riuscito a vendere i diritti aumentando il 70%, credo. Bogarelli da quando noi siamo diventati advisor abbiamo aumentato del 73%. Abbiamo preso, eravamo advisor nel 2000, rimane stato 2010-11, la stagione precedente, la somma dei diritti individuali faceva un totale di 720 milioni. Chiuderemo a giorni a 1.220 miliardi. Ecco, che mi sembra veramente un successo incredibile. E questa cosa è come se noi fra 5 anni, sperando di continuare a fare tutti i convocati, portiamo al nostro editore 70% più di pubblicità, insomma ci aspettiamo di ricevere un applauso, non degli insulti o comunque. E poi l'altro elemento che io non capisco, ma veramente faccio fatica a capirlo, è che si parla molto di questa spaccatura in Lega, di tutta una serie di discussioni, e anche l'altro giorno sentivo nella discussione sul famoso pacchetto C che è stato assegnato a Mediaset, mentre la Serie B è stata assegnata a Sky. Poi alla fine andiamo a vedere i verbali delle votazioni e finiscono 20-0, finiscono credo che la famosa tutti all'unanimità. Quindi veramente io faccio molto fatica. E gli stai chiedendo se è vero che hai litigato con Agnelli venerdì? No. Allora, devo dire che con Andrea Agnelli c'è stato un normale dibattito, cosa che succede normalmente. Quindi lui ha chiesto dei chiarimenti, mi sembra di essere stato abbastanza esaustivo nel rispondergli. Tant'è che, e peraltro avveniva non sul pacchetto C, dove c'è stata un'unanimità abbastanza rapida di tutti senza nessuna discussione, ma su quella che viene chiamata Serie A TV, che sarà una nuova distribuzione diretta al consumatore di partite in streaming e contenuti di vario tipo, via mobile e via internet. E quindi si è talmente convinto che alla fine ha chiesto se poteva investire anche lui, ovviamente non come Juventus, ma non so se privatamente o con altre aziende. Per cui il dibattito c'è stato, però alla fine, come diceva Pardo prima, alle votazioni unanimità sulle tre votazioni. Peraltro l'unanimità è una cosa molto frequente in Lega da quando noi la frequentiamo. Io mi ricordo veramente pochissime votazioni non finite all'unanimità, forse 19 favorevoli e uno. Cioè, c'è stato anche qualche bel momento di battaglia, perché sennò raccontiamo la Lega come una congrega di amici. Bogarelli, posso chiedere una cosa? Quanto conta Lotito? Come gli altri, un voto. Un voto? Un po' di più degli altri, no? Un voto? Ma conta un voto come conta un voto Agnelli, che spesso sappiamo che sono in contrapposizione per tante cose. Poi c'è chi riesce alle sue idee e alla sua linea ad aggregare più persone, altri che riesce a aggregarne meno, dipende dalle situazioni. Però la sintesi di tutto questo è un scontro, tra virgolette, di un dibattito normalissimo che spesso finisce con l'unanimità o molto vicino all'unanimità. È chiaro che non sono tutte rose e fiori, perché si parla evidentemente, si discute, soldi. E poi c'è uno spostamento, certamente, anche soldi, e c'è evidentemente poi uno spostamento, quindi uno parte nel proporre una cosa, poi viene votata una cosa che ci assomiglia, ma non è esattamente quella, perché poi il dibattito viene recepito da chi poi riesce ad aggregare la maggioranza dei voti, e tant'è che alla fine la votazione finisce a unanimità. Ma Lotito, con quell'intervista al Corriere, non dico tanto con l'intercettazione, ma con quell'intervista al Corriere, quella in cui dice io ho fatto fare l'accordo a Murdoch e Berlusconi che non si parlavano da 10 anni, cos'è stato, ingenuo, le ha fatto un danno? Oddio, ha detto una cazzata, un come è probabile. Questa è la ricaduta che ovviamente qualche fastidio più che danno. Certo. Però certo. È vero, sappiamo che il presidente Rotito si lascia andare e poi spesso dà delle interpretazioni sue a situazioni e cerca di sintetizzare magari delle storie un po' diverse e poi tirare l'acqua sul mulino. Non sarei così. Non si è arrabbiato. Siamo nell'ambito della millanteria. Pier, eh? No, siamo nell'ambito della millanteria. No, della millanteria. Noi abbiamo fatto far pace dell'avvocato Pizzani con Dotto e Mughini dopo le politiche per Roma. Non c'è niente di male, secondo me, nel far parlare le persone. Ma io volevo capire, perché un altro tema del quale devo dire un po' famosamente, ho letto in questi giorni istituzionali senza capirci molto, è il discorso dei vostri servizi commerciali. Cioè voi vi occupate della valorizzazione degli spazi commerciali all'interno degli stadi di alcune società. In questo voi avete un rapporto con alcune società, ma siete aperti a tutti, o sbaglio? Assolutamente, cioè, no, guarda, il mondo ideale sarebbe quello. Guarda, no, per capirci. O per fortuna, quando lavori antipatici e simpatici non esistono, almeno per quello che mi hanno insegnato e per quello che mi chiedono i miei azionisti. Quindi mi chiedono di fare business, di mettere un segno positivo e di sviluppare il business. Noi l'anno prossimo gestiremo dal punto di vista marketing, stadi e via dicendo, circa una ventina di società tra Serie A e Serie B. Ma perché siamo convinti che il mercato italiano, che è uscito da un dissesto importante dopo il 2006, il Calciopoli, poi il 2009 la crisi, le altre squadre erano nelle mani di altre agenzie, Sport 5, IMG, Havas, che onestamente hanno lasciato i cocci, che noi abbiamo cominciato a rimettere insieme. E abbiamo raggiunto il break-even qualche anno fa, riteniamo con questa operazione di aggiungere altre squadre di poter migliorare il mercato e di offrire un prodotto più standardizzato e quindi essere appetibili anche a quelli che vengono definiti big spender, che prima non si avvicinavano minimamente al calcio, quindi riuscire a far sì che lo stadio diventi un media, ossia un mezzo di comunicazione pianificabile dai centri media, e quello è l'obiettivo che ci proponiamo. Per farlo dobbiamo cercare di standardizzare questa comunicazione. Siamo praticamente al metodo. Io ho due domande velocissime da fare, poi lo salutiamo. La prima è se è il proprietario del Bari, e la seconda se sta per diventare il proprietario del Brescia. No, ho letto, terza, ho letto tra l'altro terza, i tifosi no, poco aspetta, contenti. Aspetta, e la terza è il continuo associare i nomi di Galliani e Bogarelli per quanto riguarda il Milan. Fatto alla prima, è una panzana ovviamente. Al Bari, come per altre società, abbiamo comprato i diritti. Il Bari è settimo ottavo bacino per numero di tifosi in Italia, stava per venire in Serie A, non questa stagione, quella precedente, l'ha mancata di poco. Nel corso dell'anno abbiamo fatto questo investimento, che è un buon investimento, siamo contenti anche in Serie B, questo in Serie A potrebbe essere importantissimo, quindi è il nostro mestiere fare quello, non c'entriamo niente. Questa è una panciana che hanno tirato fuori l'altro giorno, abbiamo letto una roba che mi fa meno ridere, perché sarebbe grottesca se purtroppo non fosse riportata dai giornali dicendo in fronte assediato alle procure. Poi uno va a leggere l'articolo e vede che hanno indagato un nostro fornitore che è fornitore di altri 50 operatori, è uno dei nostri 120 fornitori, dove non c'entriamo nulla, e l'altra appunto è l'inchiesta sul Bari, peraltro credo di gennaio o febbraio, già credo abbiano acquisito, non lo so perché veramente non siamo minimamente coinvolti. C'è un'informativa della Guardia di Finanza che spiega come sono andati i contatti sul Brescia. Marco, invece Brescia e Milan, su Brescia uguale, Brescia abbiamo non siamo né proprietari del Brescia né del Milan. No, del Milan no, di sicuro. No, va bene, del Milan scopriremo vivendo. No, Brescia è la stessa cosa di Bari, è una piazza storica, è importante. Il progetto nuovo ci piaceva, ripartenza, possibilità di fare un nuovo stadio, tante opportunità di una piazza ricca e importante, e quindi abbiamo comprato i diritti allo stesso modo come abbiamo fatto con il Bari. Grazie Bogarelli. Milan. Galliani, niente, lo conosco dal 1981, occupandomi di televisione è impossibile non conoscere Galliani. Detto questo, lo rispetto, ho molta stima, ci siamo trovati a collaborare, ci siamo trovati anche in concorrenza, come è successo qualche anno fa per i diritti televisivi. per cui con grande serenità e onestà, cosa che gli riconosco, andiamo avanti ognuno per la sua strada. Poi se le strade coincidono, a volte mi fa piacere. Potrebbe succedere. Potrebbe succedere, chi lo sa. Grazie Bogarelli. Grazie. Prego, grazie a voi. Grazie, grazie Marco Bogarelli. C'è il meteo. Meteo. Ciao da Cosmi DJ. Il vostro sensei è un mister veramente discotecaro e ne sono orgoglioso. Gente, Pardo, Capuano, scatenatevi e ballate sul tavolo. Tutti convocati. Io penso che il favorito, o la squadra favorita, è la Lazio. Molti lo dicono, forse tutti lo dicono, dicono che è la squadra più forte, che noi siamo scarsi, che loro giocano il più bel calcio d'Italia e che hanno già vinto la partita. Noi faremo solo in modo martedì di lunedì mister. Ah, non è che è spostata la partita martedì, visto che hanno giocato 120 minuti? No. Ah. Allora, se è rimasta lunedì, faremo in modo solo di smentire i pronostici, no? Sarà una partita fondamentale. Abbiamo fatto di tutto perché arrivassimo a questo punto. E adesso ci siamo arrivati, adesso ci stiamo preparando benissimo. La squadra ha recuperato sia la fatica fisica della partita di mercoledì, sia la delusione iniziale di non aver raggiunto il risultato che avremmo anche meritato per la prestazione che abbiamo fatto. Grande forma, Rudy Garcia, Pierre, in grande forma. Saluto anche Roberto Renga. Ciao Roberto. Fa lo spaccone. Garcia fa lo spaccone. Pierre. Ah, martedì, lunedì, non mi ricordo più. Però bella come battuta, no? Pierre. Se vince sì, se perde no. Tutti convocati, credo il dottor De Luca l'ha fatta al 90° e 12 secondi dopo il fischio finale, prima ancora dei supplementari. Era l'altra sera su Twitter, sì. 50 battute così sono uscite, si gioca martedì perché parla di supplementari. Che la faccia l'allenatore della Roma, insomma, in qualche modo aggiunge un po' di pepe a questa partita. È evidente che è avvenuta una cosa discutibile, anche perché poi non è avvenuta invece per quanto riguarda Juventus-Napoli, con motivazioni legittime, però insomma chiaramente questa cosa è avvenuta ed è normale che se ne discuta. Insomma, abbiamo parlato per tutta la settimana, la Lazio ha giocato mercoledì una partita importantissima, però comunque allo Stadio Olimpico poteva giocare anche oggi, secondo me senza alcun dubbio, e la contemporaneità con Juve-Napoli sarebbe stata secondo me la soluzione migliore, perché di fatto già se adesso stiamo parlando del biscottone possibile, che io non credo che ci sarà assolutamente, non penso che ci sarà, però se parliamo di biscotto, già il fatto che ne parliamo è perché io parlo di biscotto apertamente, hanno un vantaggio. Sei romano, secondo me. Io non sono romano, ma parlo di biscotto lo stesso perché. Che dice il dottor Renga? Il dottor Renga già sente il profumo che esce dal forno. No, io intanto dico che Garcia mi sembra come quei pugili che quando fanno il peso, no? Mostrano i muscoli, i denti all'avversario. Bravo Roberto. Mi ha dato questa sensazione. Bravo. Che è una figura che può piacere ai tifosi, non c'è dubbio, perché in questo momento a Roma o in giro per l'Italia tutti dicono che la Lazio gioca meglio della Roma, eccetera, eccetera. È vero, ma tutto questo mi ricorda un derby di tanti anni fa, allenatore Mazzone, e che sembrava che la Roma avesse già perso prima di cominciare. E Mazzone andava tutti i giorni con i ritagli dei giornali e li attaccava negli spogliatoi. Dice: guardate che vi danno tutti delle schiappe, voi avete già perso, vinse la Roma 3-0. Perché? Perché poi dopo c'è la reazione di quello che dice: io sono inferiore, ah per carità, eccetera. E mi sembra che Garcia stia creando questo clima. Volevo dire che comunque la contemporaneità non ci sarebbe stata lo stesso, perché una partita non era prevista. Non era prevista perché il Napoli comunque avrebbe giocato il sabato. Va bene, ma tanto sappiamo che si può fare tutto, no Roberto? Si fa tutto. Io direi la contemporaneità. Ecco, tanto per essere chiari, sono d'accordo con voi. Sì, non sarebbe stata male. Io non ho ancora capito, e per questo abbiamo chiamato Roberto Renga, se alla Lazio convenga giocarsi 90 minuti alla morte con rischio di esporsi alla condanna capitale di andare a Napoli magari da sconfitta, o se invece adesso, senza chiamarlo biscotto, ma qualche calcolo nella testa di Pioli da ieri sera, dal momento in cui il Napoli ha perso con la Juventus, c'è. Ma attenzione, sarebbe anche umano, ricordiamoci che l'hanno fatto Danimarca e Svezia e io ancora non mi sono ripreso da quel biscotto. Ma quello lì. Però era proprio quello, un biscottone. Quello era un biscottone, quello era un biscottone di quelli terrificanti, l'avrei sparato. Però dico che secondo me non c'è nessuna convenienza arrivare terzi, questo deve essere chiaro, perché io oggi mi sono messo lì per divertimento a fare dei calcoli, mi sembra che l'italiana che vada ai preliminari potrebbe incontrare o il Manchester United o il Valencia o il Bayer Leverkusen o lo Shakhtar, certo. Che vuol dire all'80% sei fuori. Beh, dipende, non buttiamoci giù. Prendi il Manchester United, non vai fuori, Pierluigi. Con lo United, Valencia, col Bayer Leverkusen te la giochi. Valencia te la giochi. Io penso che Lazio-Valencia o Roma-Valencia siano due partite giocabili, poi magari puoi perdere, ma non penso che sia... Però il rischio è enorme. No, e allora tanto vale rischiare con nella partita diretta. Bravo. In cui tutti dicono che è sei quello più che penso anch'io. È quello che penso anch'io. È quello che penso anch'io. Attenzione, anche perché i biscotti l'ho visti Carlo, però poi dici che ci sarà un biscotto. No, aspetta, quello che penso anch'io. Sentite cosa ha detto Roberto Renga. È quello che penso anch'io, cioè la Lazio dovrebbe giocare alla morte per vincere questo derby e per arrivare seconda in campionato, perché tutto il resto questo accadrà e non ci sarà il biscotto, secondo non me. Lo so. Poi è ovvio che se all'80esimo in una partita di un certo tipo, con la paura, con la stanchezza, dovesse esserci una situazione che alla fine blinda questo secondo posto alla Roma e il terzo posto alla Lazio, a quel punto umanamente qualche ragionamento i calciatori lo potrebbero fare, ma affrontare così la partita è da pazzi. Mm. È da pazzi, soprattutto da parte della Lazio che onestamente insomma arriva a questa partita secondo me con la condizione migliore, certo, e che deve vincere, mentre certo, la Roma al pareggio va benissimo, ma sapete altro. Che io sono curioso di sapere da Roberto Renga, che si è lasciato sfuggire questa cosa, di sapere quali sono stati i biscotti nel derby di Roma. Ma ci sono stati, c'è stato un periodo, Pierluigi se ne ricorda benissimo, in cui tutte le partite appareggiavano sempre 0-0, 0-0, 0-0, io mi ricordo facevo i titoli e andiamo a vedere lo 0-0, cioè una cosa ignobile, perché ma attenzione, lo facevano per paura. Un'altra volta ci fu invece un mezzo biscotto in occasione di una partita di Coppa Italia, in un derby di Coppa Italia venne fatta una proposta ai giocatori della Lazio, i giocatori della Lazio dissero ah per carità diciamo, e persero. Ma sono cose che nel calcio succedono, per carità, ma sono cose ignobili. E allora tanto vale dirlo prima, non vi mettete d'accordo per carità, perché alla Lazio non conviene, soprattutto alla Lazio. Quindi chi lo vince? Chi lo vince domani? Ma che titolo faresti domani? Andiamo a vederlo 0-0. Andiamo a vederlo 0-0. Oddio, ho sentito solo strillare, non lo so. Chi vince sinceramente non lo so, ma essendo favorita alla Lazio dovrei dire che è favorita la Roma, perché comunque dalla sua la tranquillità, il fatto che in ogni caso comunque la rigiriamo è più riposata, questo è innegabile, ed è il fatto che ultimamente non gioca benissimo, ma riesce a proteggere la difesa e comunque a trovare il golletto. La Lazio è una squadra che somiglia molto alla Cicala, nel senso che disperde anche le proprie energie in giocate brillanti, molto divertenti. Io non so quale delle due squadre ha più uomini veri, più uomini da derby. E questo è il vero tema, perché il derby romano, lo sa bene Pierluigi, è tutta una cosa diversa. Non è solo calcio, è virilità anche, è agonismo, è freddezza. Ragazzi, è bello da vedere il derby, e se ce lo tolgono, veramente mettendosi d'accordo, per carità. Sì, detto che la Lazio mercoledì ha fatto una gran partita con la Juve e quindi certamente sta bene. Sì, benissimo. Pardo, non è che stata dici? Molto fortunata con la Juve, ma insomma. No, la Lazio sta molto meglio. Va detto che la partita con la Juve dell'altro giorno ha portato, secondo me, il peggior risultato possibile per la Lazio. Cioè ha portato una sconfitta dopo 120 minuti di fatica. Dal punto di vista della Roma è stato il verdetto migliore possibile, perché c'è la stanchezza fisica e l'amarezza, diciamo, psicologica. Detto questo, io credo la Lazio stia meglio, complessivamente sta meglio. Il discorso del biscotto lo rifiuto a prescindere concettualmente, lo rifiuto a maggior ragione, perché la squadra alla quale va bene il pareggio in questo momento sembra quella un po' più sofferente. Se il contrario fosse la squadra più in forma, alla quale basta il pareggio, già sarebbe un ragionamento di tipo diverso. La Lazio in questo momento, come scriveva un ascoltatore, deve provarci, perché forse è più facile in questo momento per la Lazio vincere il derby con la Roma piuttosto che battere il Manchester United, sì, tra due mesi, che consegnarsi a quel preliminare lì. Fammi salutare Roberto Renga. Grazie Roberto. Ciao Roby. Grazie a voi, ciao, buon lavoro, ciao, buona domenica. Buon derby, c'è il traffico. Tutti convocati. Tutti convocati. Non mi pongo il problema, io sono allenatore del Milan ancora per un altro anno, per cui se il club mi dirà qualcos'altro, io finché non avrò comunicazioni vado avanti per la mia strada. Io penso di aver capito tanto, comunque ho avuto delle buone e buonissime risposte dai miei giocatori sotto il punto di vista dell'impegno, della voglia di fare. Sento quotidianamente la società, per cui io vado avanti cercando di dare sempre il massimo, come ho sempre fatto, perché insomma quando uno dà tutto poi non ha rimpianti, ed è questa la cosa più importante per me. Io non devo dare risposta a nessuno, nel senso io ho parlato spesso col presidente, penso tutti i giorni da 9 mesi, per cui siamo stati molte volte, siamo stati in accordo con delle cose che ci siamo detti, altre volte non eravamo d'accordo, ma mi ha sempre lasciato lavorare. Insomma, la mia decisione è sempre stata quella finale, come è giusto che sia di un allenatore. Io ho letto le sue dichiarazioni, ha detto anche cose positive che non sono state rimarcate, come sempre, per cui io domani farò giocare la squadra che penso sia migliore per battere il Torino. E questo, carissimo Pier, è Pippo Inzaghi, versione ultimo dei giapponesi. Io qui Rino Gattuso, che è arrivata la 1000ª foto, eh? Sì. Adesso tra un po' ci parliamo. Però non gli dobbiamo chiedere del Milan. No. Solite domande sul Milan, sul futuro. Che no? Fagli tu un paio di domande. Di Rangers Glasgow. Vai Pier. Adesso sta facendo foto, è una star, eh? Questo è un sex symbol, è una star, quest'uomo. Non ti chiedo del Milan, Rino, di che vuoi parlare? Come siamo stati a Firenze? Buonasera. Ciao. Buonasera Rino. Ciao Rino. Come va? Bene. Benissimo. Tutto bene, sì. No, non bene. È stata una mezza giornata con Pierluigi Pazzo. Devo dire che è una roba molto faticosa. Ho preso un Aulin. Lo so bene. Spero che mi passa in fretta. Io le faccio tutti i giorni, le giornate con Pierluigi Pardo, quindi so perfettamente di cosa stai parlando. Senti Rino, senza entrare troppo nello specifico, però affida un messaggio al tuo amico Pippo, che con oggi chiude a San Siro e ha davanti comunque una carriera che si può aprire, cioè il mondo non finisce questa sera, non finisce fra una settimana, non finisce con chi arriverà dopo di lui. No, specialmente per noi giovani dobbiamo crescere, dobbiamo imparare, sicuramente detto bene, non finisce stasera, sicuramente può finire l'avventura Milan, però ci sono altre, spero che arriveranno altre situazioni importanti. Ma te l'idea di Ancelotti che torna piace? Sembra fantacalcio, ho detto l'altra volta andrei a prenderlo io a piedi, però mi sembra un po', lo spero, da milanista, la società che ho avuto la possibilità di indossare la maglia per 14 stagioni, lo spero, però mi sembra un po' difficile. Però è il nome che può accendere di nuovo quella passione che quest'anno si è un po' persa. Sai qual è il problema? Che non c'è un Gattuso nel Milan di oggi. No, non è quello. Oggi, è quello, Rino. Oggi la luce non la può accendere solo Carlo. Carlo sarebbe un pezzo importante, però dopo ci vogliono giocatori forti, giocatori che riescono a fare salto di qualità, perché l'allenatore sicuramente è una parte importante per una struttura societaria, per una squadra, però ci vuole anche una squadra forte. Ci vogliono quelli con i coglioni, Rino. Sì. Ma coi coglioni puoi vincere qualche partita, ci vogliono chi la butta dentro, chi riesce a fare l'ultimo passaggio, ci vogliono tante componenti. Cominciamo dall'inizio. Sì, ci vuole in testa tutto, ci vuole anche un progetto, dei soldi, cioè tutte cose che capiremo nelle prossime settimane, perché si è capito poco. Invece qual è il tuo pronostico su Berlino? Perché vedo i tuoi amici, perché tu ne hai tanti di amici in questa Juventus, che stanno tranquilli, profilo basso, 30% favoriti loro. A me è andato di fatto che sono i più forti, la squadra da battere, e penso che da italiano spero che la Juve riuscirà a vincere questa finale, sarebbe sarebbe un miracolo calcistico, però il calcio è di colore, ma da italiano spero che la Juve veramente può vincere questa coppa. Grazie Rino. Ciao Rino. Un abbraccio a tutti voi. Salutaci, ciao. Pierre, digli che lo lasciamo libero, lo convochiamo per domani alle ore 14. Adesso provo a buttarlo sul binario, vediamo. Buttalo giù dal binario. Grazie Rino. Mi sto piacere. Ciao Rino. Grazie Rino, ciao. E grazie per Luigi Pardo. Parliamo di ciclismo. La vittoria per Mikel Landa e chissà che forse non siano cambiate anche le gerarchie in casa Astana. Landa davanti a Trofimov, Contador terzo, quarta posizione per Fabio Aru. Contador non ha vinto, è vero, però oggi ha reso ancora più grande l'ipoteca che già ieri nella cronometro aveva piazzato sul Giro d'Italia. Ivan Basso, ciao Ivan. Tu sai che è milanista, no? Ciao a tutti. Tu sai che Basso è milanista, quindi sì, dopo Gattuso parla Ivan Basso e sembra veramente la fiera del Milan. Siamo a Milan Channel. Senti, Milan Channel. Giro finito? Inizia la seconda settimana, inizia la terza martedì. Sì, però la classifica dice primo Contador, secondo Aru a 2.35, altri favoriti sono ancora più lontani o completamente fuori classifica. Ciao ciao. C'è un po' la sensazione, insomma, che il giro abbia il suo padrone. Ciao ciao. Ma ovviamente Contador ha mostrato ieri nella cronometro e oggi nella riva in salita di avere una forma eccezionale. Ieri ha fatto una grandissima cronometro, oggi nell'arrivo in salita è riuscito a, nonostante la nostra difficoltà nel sostenerlo nell'ultima parte di gara, è riuscito a fare bene. Un fantastico podio e quindi insomma tutto bene. Io sono stufo di sentirti parlare di Contador, voglio sentire parlare di Ivan Basso, come stai? Come ho detto poco fa, noi non faticato. Siamo... No, tu, non noi, tu. Io e i miei compagni non siamo riusciti a sostenere Alberto come volevamo nel finale di corsa, ovviamente per una mancanza di gambe, perché in salita questo, di questo si tratta, e quindi cerchiamo di ritrovare le energie fisiche, cerchiamo. Bravo, con cerco. I miei compagni, sì. Per cercare di... Da martedì, insomma, ci sono ancora tre tappe molto molto complicate. Ivan, dimmi squadra... che ne vinci una, per favore. Dai, dimmelo. L'obiettivo di questa squadra è vincere il giro. No, dimmi che vinci una tappa. Dimmi che vinci una tappa. Non lo dico perché, prima cosa, mancano le gambe per vincere una tappa. E seconda cosa, l'obiettivo per la Tinkoff Sachs è quello di vincere il Giro d'Italia con Contador. E quindi questo è il nostro obiettivo, grande obiettivo, e è ancora lontano, però giorno per giorno è sempre più vicino. Senti, mi dici, tra Mortirolo martedì, Cervinia venerdì e il Colle delle Finestre quale sabato, vinci? No, non quale vinci, cioè, se c'è una tappa che può rivoluzionare tutto, qual è? Cioè una da segnarsi sul calendario, prendere mezza giornata di ferie e guardarla, e quale vinci? Io credo le due tappe più difficili sono quella di martedì e quella di sabato. Quindi Mortirolo, rivoluzioni non ne vedo sicuramente difficoltà, perché in questo momento c'è un corridore fortissimo e questo è Alberto Contador, e una squadra fortissima che questa è l'Astana. Noi cerchiamo di fare il nostro meglio per sostenere il nostro capitano e lo faremo ovviamente da martedì a domenica al meglio delle nostre possibilità. Grazie Ivan. Ciao Ivan. Grazie a voi, buona ciao. Serata a tutti. Grazie ciao. Ad Ivan Basso, ricordiamo Contador maglia rosa 2.35 su Fabio Aru, che ieri è andato obiettivamente male a cronometro. Noi ci fermiamo qui. Io ringrazio Giorgio De Luca, autore di questa puntata, Gianmarco Ferronato in regia, Carlo Genta qui. Ciao. L'appuntamento con tutti i convocati weekend è per domenica, come tradizione, a partire dalle ore 18 a 17. Domani invece, dopo il GR delle 14, Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Ciao. Grazie a tutti. Ci vediamo tutti quanti al bar. 4 amici al bar.